questo giorno. Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Precipita in mare un aereo dell'Egyptair decollato da Parigi. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Molti francesi a bordo, nessun italiano. Ci vogliono nuovi hotspot per i migranti in Sicilia, avverte l'Europa. Intanto Alfano annuncia più uomini al confine di Tarvisio, dove entrano dall'Austria verso l'Italia. Renzi e la cancellazione di Equitalia, replicano i 5 Stelle. Lo si faccia davvero? Di Maio, il presidente del Consiglio, è un generatore automatico di annunci. Verso l'addio a Marco Pannella, il leader radicale, è sedato da ieri in clinica. Secondo i medici non c'è speranza, le sue condizioni si sono aggravate da marzo. Congedo di maternità esteso per le madri dei bimbi prematuri, scatterà la data di nascita presunta, operativo da ieri il decreto che lo prevede. Anche gli studenti del quinto anno voteranno per il bonus di merito ai professori, accade in un liceo padovano fra le proteste della CGIL. Non solo il presidente del Parco dei Nebrodi, ma anche un sindaco sotto minaccia, sarò il prossimo, dice lui, lo sentiremo tra poco. L'ha detto Maso, l'azienda di scarpe che ha servito Papa Ratzinger, Brad Pitt e George Clooney, verso la vendita agli americani. Le tre cime di Lavaredo sulle Dolomiti entrano nel nuovo video dei Coldplay, Up and Up. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Se volete seguite il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque l'aereo Egyptair precipitato in mare. Livia Zancaner, buongiorno. Buongiorno Simone, allora dovrebbe cominciare tra poco la conferenza stampa, l'attesa conferenza stampa al Cairo sulla scomparsa questa notte dell'aereo Egyptair con a bordo 66 persone. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche l'attentato terroristico, ha ribadito poco fa il presidente francese Hollande. Sentiamo. Aucune hypothèse n'est écartée. Nessuna ipotesi è da scartare né da privilegiare, ha detto Hollande, e la procura francese ha aperto un'inchiesta. Per ora le informazioni certe sono che l'Airbus 320 ha lasciato Charles de Gaulle ieri alle 23.09 con arrivo atteso al Cairo alle 3.15, intorno alle 20.45-20.30 il volo alle 2.30, scusate, il volo MS-804 è scomparso dai radar dopo essere entrato nello spazio aereo egiziano. Circa 30-40 miglia a nord della costa, volava a 37.000 piedi, a bordo 56 passeggeri più 10 membri dell'equipaggio, 30 egiziani e 15 francesi tra di loro. Notizia invece non confermata, anzi smentita questa mattina dall'esercito egiziano, la chiamata di soccorso da parte del pilota alle ore 2.26, non ufficiale almeno per ora, neanche il ritrovamento del relitto in mare a circa 130 miglia dall'isola greca di Karpathos, tra Creta e Rodi nel Mar Egeo. Navi e aerei militari greci sono comunque sul luogo. Infine ricordiamo, neanche 6 mesi fa, il 31 ottobre 2015, l'Airbus 321 decollato da Sharm diretto a San Pietroburgo, schiantatosi sul Sinai dopo l'esplosione di una bomba artigianale rivendicata dall'ISIS. 224 i morti. A te Simone. E grazie dunque a Livia Zaccarer per questo aggiornamento. Maggiori aggiornamenti, se arriveranno evidentemente, soprattutto dalla conferenza stampa che dovrebbe iniziare a minuti al Cairo, ve li daremo nel corso della trasmissione. Ci spostiamo in Libia, dove la situazione di tensione resta altissima. Già debole in partenza, l'intesa sulla Libia raggiunta a Vienna pochi giorni fa rischia di collassare su se stessa. La causa? I troppi attori in gioco. A mettere in crisi le intese è il generale Khalifa Haftar. L'ex fedelissimo di Gheddafi ha definito le decisioni del governo di Sarraj, voluto dall'ONU, solo inchiostro su pezzi di carta, aggiungendo di non aver tempo da perdere per parlare con Kobler, l'inviato speciale delle Nazioni Unite che Haftar si è rifiutato di incontrare la settimana scorsa. Tra i punti di frattura pesano soprattutto il via libera giunto da Vienna all'operatività del governo di Sarraj e il mancato incontro tra Sarraj e Saleh, presidente del Parlamento di Tobruk, cui risponde il generale Haftar. Il nodo resta il ruolo che spetterà ad Haftar, vicino al presidente egiziano al-Sisi, nel nuovo Stato libico. Giuseppe Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo all'aggiornamento sulla situazione dei migranti. All'ordine sparso con cui procede l'Europa cerca di dare una linea al commissario Avramopoulos. Sebbene l'accordo con la Turchia mostri le crepe, Bruxelles ci fa affidamento e ha fatto proprio un atteggiamento più fermo e dunque più duro nei confronti dei migranti. Per Roma significa incassare il fatto che le preoccupazioni austriache e la conseguente possibilità di adottare misure straordinarie e provvisorie siano avallate dalla Commissione. Nonostante il fatto che ogni giorno dall'Austria all'Italia attraverso Tarvisio entrino nel nostro paese dalle 30 alle 50 persone, persone, afghani e pakistani per lo più respinti dalla Germania. Il ministro Alfano ha promesso l'arrivo di 10 soldati per il rinforzo dei controlli. Ben vengano, dice il sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, ma il problema resta. O interrompiamo questo flusso, trovando degli accordi diretti tra i due ministeri, accelerando le nostre pratiche di identificazione, così interrompiamo questa abitudine austriaca di mandare tutti da noi, passano ogni giorno un numero fisso di qualche decina di persone, mai troppe per creare un caso internazionale. Viene sospetto che sia quasi un numero contingentato. A Bruxelles l'impegno italiano è riconosciuto e sostenuto, ma ci vuole uno sforzo ulteriore. Altri hotspot in vista di flussi più imponenti, possibilmente non galleggianti, un'ipotesi che non piace alla Commissione. Nel complesso il piano europeo è al palo. Su 20.000 profughi da ricollocare entro metà maggio, Italia e Grecia sono riuscite a trasferirne solo 1.500. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il punto politico di giornata, a partire dalle parole di Renzi di ieri su Equitalia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un intervento, quello annunciato dal Premier, che arriva a sorpresa, anche se fonti del Ministero del Tesoro confermano che l'ipotesi non è nuova, ma sul tavolo di Padoan da diverso tempo. Palazzo Chigi punta allora ad una revisione del sistema di riscossione. Stiamo riorganizzando le agenzie, ha spiegato ieri sera Renzi. Tutto il sistema del rapporto tra il cittadino e il pubblico amministratore. Al 2018 Equitalia non ci arriva, ha annunciato il Presidente del Consiglio. La riorganizzazione di questo sistema, ha aggiunto, prevederà un modello del tutto diverso, più a disposizione del cittadino e non di fatto, Simone, si vuole superare la fase del muro contro muro, che in passato ha visto anche gesti estremi, un percorso questo già avviato, come confermato dal numero uno dell'Agenzia delle Entrate Orlandi, con l'approccio più amichevole nelle controversie, con il faro puntato sulle grandi evasioni e maggiore comprensione per i piccoli importi. In concreto l'esecutivo si avvarrà di più dei dati digitali, più incroci e verifiche a monte nella macchina dello Stato per evitare raccomandate duplicazioni di notifiche a volte inutili e poco comprensibili. All'insegna dello scetticismo, però, la reazione delle opposizioni, quella di Renzi, è l'ennesima fregatura, dice Di Maio del Movimento 5 Stelle. Se il governo vuole abolire Equitalia, non lo faccia con annunci prima delle elezioni, ma con i fatti. Si tratta solo di un Renzi show, aggiunge da Forza Italia Gasparri. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e restiamo sulla politica per una notizia triste, quella che riguarda Marco Pannella. Gli aggiornamenti da Andrea Viali. Andrea. Sì, è così Simone, attorno a Marco Pannella c'è il massimo riservo in queste ore, perché da ieri il leader radicale è ricoverato in una clinica privata di Roma, dove potrà essere seguito in modo adeguato alle sue condizioni di salute, cosa che non era ormai più possibile nella sua abitazione. In questa clinica non sono previsti bollettini medici e Pannella non può ricevere visite. Alla sua stanza hanno accesso soltanto le persone che gli sono state vicine in queste ultime settimane nelle quali le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate. Pannella, lo ricordiamo, lotta da tempo contro due tumori, uno ai polmoni e uno al fegato, e per i medici ora per lui non ci sarebbero ormai più speranze. Fino ad un paio di giorni fa il leader radicale aveva comunque continuato con forza, con ostinazione, anche a ricevere nella sua casa in via della Panetteria amici, militanti radicali e politici di tutti gli schieramenti, che ora provano a sostenerlo con molti messaggi di affetto che in queste ore stanno circolando sui social network, Simone. Grazie Andrea Viali per questo aggiornamento. È stato arrestato un costruttore romano collegato alla vicenda della casa dell'ex ministro Tremonti. Avrebbe sottratto oltre 11 milioni di euro dal patrimonio di due società a lui riconducibili, portandole al fallimento. Per questo l'imprenditore edile romano Angelo Proietti da questa mattina è agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata, reato per il quale rischia fino a 15 anni. A disporlo il GIP di Roma al termine di un'inchiesta condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Un nome già noto alle cronache giudiziarie è quello di Proietti, in particolare per la vicenda dell'appartamento romano affittato dall'ex parlamentare Marco Milanese per ospitarvi l'allora ministro Giulio Tremonti. Proietti si occupò della ristrutturazione a titolo gratuito dell'immobile. Il provvedimento di Erno invece è scattato al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria che ha interessato in prima battuta la Edil Ars SRL, società con sede a Roma amministrata da Proietti, che si occupa di costruzione e ristrutturazione di edifici, oltre alla conservazione e restauro di opere d'arte. Sequestrati anche conti che l'imprenditore aveva presso lo IOR, conti sui quali incassava direttamente ingenti pagamenti che avrebbero dovuto invece essere versati alla società fallita. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. È operativo un decreto importante che riguarda le mamme dei prematuri. Le richieste avanzate in 10 anni dall'Associazione Nazionale Vivere Onlus sono state accolte. Il congedo delle mamme dei neonati prematuri scatterà dal momento della nascita presunta. Il decreto è operativo dalla fine di aprile, ma l'obiettivo dell'associazione resta quello di far partire la maternità obbligatoria dal momento in cui il bimbo viene dimesso dall'ospedale o dalla casa di cura, come ha dichiarato l'avvocato Martina Bruscagnin, presidente di Vivere Onlus. Nel nostro paese nascono ogni giorno 20 bimbi che non superano il 1,5 kg di peso e vengono attaccati ad una macchina anziché al seno. Numero in costante crescita anche in seguito all'aumento dei casi di fecondazione assistita che eleva le probabilità di un parto prematuro. Includere il periodo di degenza del neonato nel congedo obbligatorio consentirebbe di tutelare anche i casi più gravi, come quelli in cui il bambino ha ancora bisogno di ossigeno o di proseguire le terapie accanto alla madre anche a casa. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pubblicato 2 giorni fa, conta già oltre 9 milioni di visualizzazioni. È Up and Up, il nuovo video dei Coldplay, e a sorpresa appare anche un po' d'Italia. Un tuffo in un piatto di pasta, un vulcano che rutta popcorn, una piscina sopra il cielo. Scenari reali e immaginari insieme nel nuovo video Up and Up dei Coldplay. Ma tra i paesaggi scelti dai registi israeliani Vania Heiman e Gal Muggia, uno ha stuzzicato un nostro orgoglio nazionale: le tre cime di Lavaredo, viste dal versante di sud-ovest e riprese dai Cadini di Misurina. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Pochi secondi nei quali si vede Guy Berryman suonare tra due delle tre vette patrimonio UNESCO. Pochi secondi sufficienti però a suscitare una bella emozione e ancora una volta l'attenzione sulle tre cime che, segnala il Corriere delle Alpi, erano finite anche in un video della cantautrice scozzese Amy MacDonald. E ora l'amministrazione pensa alla creazione di una piccola film commission locale per valorizzare un patrimonio sublime. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, un paio di notizie che sono arrivate in questi minuti. Il primo è un aggiornamento che riguarda l'aereo della Egyptair che è precipitato questa mattina, questa notte, scomparso la notte scorsa con 66 passeggeri a bordo. Il ministro della difesa greco ha riferito che l'aereo ha compiuto brusche virate e ha improvvisamente perso quota prima di scomparire dai radar. Sta per iniziare la conferenza stampa al Cairo. Ovviamente quando avremo aggiornamenti su questo fronte ve li daremo. L'altra notizia invece riguarda più strettamente l'Italia e la politica economica. Sono le parole del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che a margine di un'iniziativa nell'ambito di Garanzia Giovani ha annunciato che stanno valutando in sede di legge di stabilità l'ipotesi di anticipare al 2017 un taglio strutturale del cuneo fiscale in modo da rendere meno costoso il lavoro a tempo indeterminato. Queste le ultime due notizie. Il traffico, poi ci risentiamo, parleremo col sindaco di Troina. Siamo sempre nel parco dei Nebro, di anche lui minacciato, e dice: anch'io sarò il prossimo, dopo l'agguato al presidente del parco di Nebrodi di 2 notti fa. Torneremo sulla vicenda di Torino. Ricorderete, l'abbiamo raccontata, la coppia di ragazzi gay che ha subito vessazioni per 2 anni all'interno del condominio. Ebbene, il condomino è stato condannato per stalking. Poi la vicenda, come vi dicevamo nei titoli, del preside del liceo Duca d'Aosta di Padova, che decide di far votare per dare il bonus economico agli insegnanti anche i ragazzi di quinta liceo. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati e torneremo ad occuparci con gli aggiornamenti appena ne avremo dell'aereo dell'Egyptair precipitato mentre era in viaggio da Parigi per il Cairo. L'ultima notizia, come vi abbiamo riferito, è che ci sarebbero state delle brusche virate prima che l'aereo perdesse quota e precipitasse appunto in mare, molti francesi a bordo e nessun italiano. Abbiamo parlato di immigrazione con l'Europa che vuole nuovi hotspot per la Sicilia, abbiamo parlato di Equitalia, di Renzi che propone la cancellazione, abbiamo parlato delle condizioni gravi di Marco Pannella e adesso iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia e iniziamo tornando in Sicilia. Sebastiano Venezia, buongiorno. Buongiorno. Sebastiano Venezia, 34 anni, è il sindaco di Troina. Siamo nel Parco dei Nebrodi, la vicenda ve l'abbiamo raccontata ieri. Il presidente del Parco dei Nebrodi è stato oggetto di un agguato. Ieri c'è stato uno scontro a fuoco con la sua scorta. Si è salvato sostanzialmente perché aveva l'auto blindata. Ma c'è un'altra persona che è minacciata all'interno di quel parco ed è proprio lei. Venezia ci racconta che cosa è successo, che minacce le sono arrivate. È successo che sono stati materialmente tolti diverse migliaia di ettari del nostro bosco a delle famiglie legate agli ambienti della criminalità organizzata e della mafia, e in questi mesi c'è stata, diciamo, una grande battaglia su questo fronte che ci ha visti esposti. Nelle settimane scorse sono state impugnate le interdittive antimafia emanate dalla prefettura di Messina, il TAR ha bocciato i ricorsi degli affittuari e quindi alla fine, diciamo, il risultato è stato che sono stati colpiti nel cuore degli interessi economici queste famiglie che dalla gestione di questi pascoli, pagando canoni irrisori, eludendo la normativa antimafia, senza eludendo anche la normativa in materia di trasparenza nelle procedure di evidenza pubblica, si era accaparrate queste ingenti risorse. In sostanza, sindaco, diciamola così, avete vinto voi e lei è sotto scorta, no? Sì, sì. Sotto scorta da quanto? Dal 22 dicembre del 2014. Dal 22 dicembre del 2014, quindi da quando avete iniziato questa battaglia? Dallo stesso giorno, sì, di Antoci. Dallo stesso giorno di Antoci, quando avete iniziato questa battaglia, ha ricevuto minacce esplicite? Sì, sì, sono venuti anche personalmente a dire come stavano le cose, che volevano che noi sistemassimo i contratti, altrimenti ci sarebbero state delle reazioni. Cosa hanno fatto? Sono venuti a casa sua, sono venuti nel suo ufficio, no? No, sapevano che dei nostri spostamenti e ci sono fatti trovare. Poi, quando abbiamo iniziato a fare le gare, hanno iniziato a farci trovare attack nei lucchetti, che odio, diciamo, dei segnali di insofferenza rispetto a questo nuovo corso. Hanno minacciato lei personalmente, la sua famiglia? No, la mia famiglia no, per fortuna. Lei personalmente. Senta, sindaco, lei ha detto, dopo aver visto l'agguato appunto al presidente del Parco dei Nebrodi, ha detto: io sarò il prossimo. Sì, purtroppo qua l'esposizione è altissima, siamo consapevoli di aver toccato interessi economici ingenti, quindi ovviamente il livello di preoccupazione in questo momento è alta, anche perché appunto lo scontro e la reazione che c'è stata, siamo in presenza soprattutto di ambienti malavitosi, molto efferati, sanguinari, che non esitano a utilizzare i tradizionali metodi mafiosi nella violenza mafiosa per reagire a chi tenta di contrastarli. Parliamo però anche di cose belle, sindaco, perché da quel che mi risulta, da quando avete iniziato questa battaglia, in realtà sta rifiorendo il parco, no? I dati e i segnali che arrivano anche sulle presenze turistiche sono molto forti. C'è una grande operazione di bilancio culturale e turistico del territorio che ovviamente può continuare solo se lo Stato garantisce un livello adeguato di sicurezza sul territorio. Non è ipotizzabile parlare di turismo, parlare di sviluppo dell'agricoltura di qualità se non c'è a monte un livello adeguato. E bastano secondo lei le forze di sicurezza che ci sono al momento sul territorio, ci vorrebbe di più? In questo momento non bastano assolutamente, occorrono dei segnali molto forti e incisivi. Andrebbe militarizzata la zona, secondo lei? Secondo me sì, un intervento pesante anche attraverso il coinvolgimento dell'esercito, anche perché parliamo di migliaia di ettari incontrollati in aree rurali disperse, che necessitano di un controllo che le forze dell'ordine da sole non riescono a garantire. Certo, non riescono a garantire, quindi ci vorrebbe l'esercito. Io la ringrazio, grazie a Sebastiano Venezia, sindaco di Troina, per essere stato con noi. Le auguro un grandissimo in bocca al lupo, così come facciamo sempre con i sindaci che si mettono in prima linea a favore della legalità. Seguiremo la vicenda, seguiremo questa vicenda, così come seguiremo le altre. Abbiamo seguito anche quelle dell'abusivismo che riguarda la Sicilia, ma non solamente la Sicilia. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo dalla Sicilia a Torino, per una vicenda della quale ci eravamo già occupati, lo ricorderete, la vicenda di una coppia gay che era andata a vivere in un condominio e aveva subito sostanzialmente 2 anni di vessazioni continue. Un condomino in particolare era stato molto aggressivo, però la cosa che colpiva era il silenzio di tutti gli altri. Ebbene, abbiamo la condanna, questo condomino è stato condannato per stalking. Anna Ronfani è l'avvocato della coppia, appunto, che ha deciso di rivolgersi alla giustizia penale per questo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a anzi, voi. Anzi, bentornata ai nostri microfoni. Sì, quindi è grazie. Arrivata la condanna, il giudice ha riconosciuto le vostre ragioni. Sì, ieri è stata pronunciata questa sentenza nell'aula del tribunale e direi che è stata una sentenza che ha restituito alle persone offese il giusto e doveroso rispetto per la loro persona innanzitutto, che è ciò di cui hanno più sentito la mancanza nei lunghi mesi che hanno trascorso all'interno di quel condominio, misurandosi con l'ostilità di molte persone e comunque almeno con certezza di quella persona che è stata individuata come personalmente autrice delle condotte che erano descritte nel capo d'imputazione. Perché come già raccontavamo, avvocato, il tema sicuramente è questa persona che non solo ha messo in atto minacce, ma appunto dei suoi familiari sarebbero resi protagonisti di vere e proprie aggressioni nei confronti dei suoi assistiti, ma il tema era il silenzio che circondava tutto questo, no? Aggressioni verbali di fronte magari altri 4-5 condomini che rimanevano in perfetto silenzio. Sì, certamente non c'è stato uno schieramento a difesa o a solidarietà di questi due ragazzi, mentre invece quello che i ragazzi descrivevano accadere all'interno del condominio, e cioè una posizione ostile manifestata come minimo con il silenzio, e poi in parte riprodotto anche in aula quando questi condomini sono stati sentiti come testimoni a richiesta della difesa e hanno tenuto un atteggiamento nei confronti delle due persone offese molto molto molto connotato da ostilità e nei loro confronti devo dire anche scarso rispetto. Non riuscivano neanche a chiamarli col loro nome e cognome, pur avendo vissuto con loro per molti mesi nello stesso condominio, li chiamavano quello lì, quello là, uno, l'altro, neanche la dignità dell'individualità. Neanche la dignità dell'individualità. La ringrazio. Grazie Anna Ronfani, avvocato della coppia omosessuale del Palazzo di Via Paravia a Torino, per averci aiutato di nuovo a raccontare questo, tra l'altro a 2 giorni dalla giornata mondiale contro l'omofobia, che come sapete si è celebrata appunto 48 ore fa. Adesso ci occupiamo di arte, perché il Museo del Novecento di Milano presenta fino al 4 settembre la mostra Disegnare le parole, Mimmo Paladino tra arte e letteratura, a cura di Giorgio Bacci. È un percorso insolito nell'attività artistica di questo grande artista italiano di fama internazionale, tra i principali esponenti della transavanguardia, le cui opere sono presenti, lo ricordiamo, anche al Metropolitan Museum of Art di New York. Mimmo Paladino, bene, lo ha intervistato Adriana Fracchia. Disegnare le parole, Mimmo Paladino tra arte e letteratura. 150 opere e 2 inediti, disegni realizzati con varie tecniche sui grandi classici. Ecco, quindi una sua produzione meno nota ai più. Perché questa scelta? Ma la scelta è dovuta all'accumulo di queste pagine che negli anni si sono viste, che non era un dettaglio del mio lavoro, ma una parte abbastanza importante. Poi in contraddizione in questo momento un'arte più planetaria, più priva così di un linguaggio specifico, è una sorta di chiudersi e ritirarsi nella pagina scritta, che è un atteggiamento di non velocità, quindi le pagine vanno lette con lentezza, e gli artisti hanno sempre disegnato le pagine, insomma, fin dai grandi illustratori, penso a Doré con il Dante Alighieri ed altri. Quindi è un atteggiamento ed è una proposta che forse fa riflettere che il libro stampato e la pagina disegnata è ancora importante, insomma. Adesso ci fermiamo, come sempre andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione altre due storie dall'Italia, quella che arriva da Padova dove sta facendo molto discutere la decisione di un preside, il preside del liceo Duca d'Aosta, che ha deciso di far votare, come sapete da quest'anno è previsto un bonus di merito per i professori, insomma, e ha deciso di far votare su questo bonus di merito anche i ragazzi della quinta, tra le proteste piuttosto forti dei sindacati, in particolare della CGIL, e poi la storia di un'azienda italiana che viene comprata dall'estero. È una piccola azienda, ma è un'azienda famosa. Per darvi un'idea, le ricorderete le scarpe rosse di Papa Ratzinger? Ebbene, le aveva fatte proprio questa azienda, che è un'azienda calabrese, ed è là dunque che andremo. Ma ha fatto anche scarpe per George Clooney, per Brad Pitt. Se la comprano gli americani. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. È precipitato in mare un aereo dell'Egyptair in viaggio da Parigi per il Cairo. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo, c'erano molti francesi a bordo, nessun italiano avrebbe effettuato alcune virate appunto per poi precipitare. Ci vogliono nuovi hotspot per i migranti da realizzare in Sicilia, avverte l'Europa. Intanto Alfano annuncia più uomini al confine di Tarvisio, dove entrano dall'Austria verso l'Italia. Renzi e la cancellazione di Equitalia, replicano i 5 Stelle, lo si faccia davvero. Intanto il ministro del lavoro Poletti annuncia, stiamo lavorando sull'ipotesi di ridurre il cuneo fiscale già nel 2017. Verso l'addio a Marco Pannella, il leader radicale si è dato da ieri in clinica. Secondo i medici non c'è speranza, le sue condizioni si erano aggravate da marzo. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti e ripartiamo nel nostro giro per l'Italia da Padova e dal liceo Duca d'Aosta. È in linea con noi il preside Alberto Danieli. Buongiorno preside, benvenuto. Salve a tutti voi, salve a tutti. Allora, che cosa succede? Succede che da quest'anno, con il decreto cosiddetto la buona scuola, è prevista una premialità di merito per i docenti, una premialità economica, cioè dei soldi per i docenti più meritevoli. È previsto che venga istituito un comitato di valutazione all'interno della scuola per stabilire quali docenti debbano ottenere questo premio, e lei ci ha aggiunto una cosa, ha detto, guardate, votano anche gli studenti. Che sì, bellissimo, è quasi perfetta la sua ricostruzione. In realtà questo comitato stabilisce i criteri che poi saranno applicati. Nel caso specifico il comitato ha elaborato quattro diversi questionari da sottoporre a più persone, a più categorie. Va detto, così per curiosità. Sì, mi scusi, c'è stato un piccolo errore mio. Appunto, i comitati devono stabilire i criteri, poi è il dirigente scolastico, quindi nella fattispecie lei che deve decidere chi risponde meglio a questi criteri. Io sono andato oltre, con un po' di percorso creativo. Che è successo in questo comitato? In modo, ricordo, quattro questionari, tre dei quali raggiunti con percorso unanime di tutti i sette membri, sì. E su un questionario sei membri stretti d'accordo. E io non farò alcunché, io tabulerò, io o qualcun altro, un lavoro d'ufficio, i dati che sono stati raccolti e verrà in modo automatico tutto quello che ci serve. Sì. Si è data la voce ai ragazzi di classe quinta, che penso siano ragazzi responsabili che vanno a votare, sono uomini e donne maturi che noi abbiamo formato in questi voteranno anni. Quindi voteranno sui professori, ha idea? No, rispondono a delle domande, che so, per esempio, mi faccia un esempio preside, perché sennò non capisco. Proviamo una domanda, se la sto leggendo pari che so, ho trovato disponibilità giallo e sotto i colorati, sì. Diversamente. Andiamo sul giallo. Sul giallo potrebbe essere questa. Nella mia formazione complessiva in questi anni di liceo, un ruolo importante in positivo è stato svolto dal professore, dalla professoressa, e un ragazzo può annotare tre nominativi. prerogativi di docenti che secondo lui hanno in qualche modo contribuito. Ma sono solo in quindi sono solo in positivo sostanzialmente. Perché il percorso è premiale, non è in qualche modo legato alla parte. Però l'opposto sarebbe stato divertente. Sì, ma non è passata così la normativa, è diverso. Le leggo un'altra domanda. In questi anni ho presentato la disciplina di studio con più approcci, con più metodologie, facendomi crescere nelle competenze disciplinari, il Profor, la professoressa, e qui un ragazzo ha tre possibilità di scrivere. Può anche non scrivere niente, può anche non educare questa sua scheda gialla, sì. E in questo modo esprime dei pareri. Sì, ma diciamo mi scusi, che si basa mi scusi, su una teoria. Mi scusi, la CGIL si è imbestialita, ho visto. La CGIL si è imbestialita. Che cosa dicono loro? Che cosa le dicono? Dicono che non faccio la CGIL in questa fase. Le dico che la CGIL, per esempio, mi accusa di non essere passato in collegio a presentare questi percorsi, dimenticando che un articolo della Costituzione, mi pare forse sia il 67, parla di senza vincolo di mandato. Se abbiamo trovato un documento che 7 membri su 7, le eletti dal collegio, dal consiglio, hanno in qualche modo approvato, cosa vogliamo di più? 7 su 7? Ascolti, ma votano anche i genitori? Allora, abbiamo individuato tutti i ragazzi di classe quinta, sì. Tutti i genitori, sì. Di classe quarta, sì. E poi hanno due diversi questionari i docenti. Uno è in qualche modo di autovalutazione e autodichiarazione su quello che è successo quest'anno, e un altro invece sempre quindi, è legato premi, a queste premi di merito in iperdemocrazia. Senta una cosa, ultima domanda. Io sono sicuro che i docenti della sua scuola glielo boicotteranno questa cosa, o no? Ma vedremo. C'è per ora non mi pare sia così. Comunque vediamo. Ma non so se è un grande vantaggio boicottare questo percorso, perché chi non partecipa non conta. E sì. In questo modo peseranno molto di più i voti delle altre categorie. Certo, giusto, capisco. E quindi qui è un bel discorso di politica e di statistica. Non ci sono? Non conto niente. Ci sono? Forse conto qualcosa. Allora, la ringrazio. Devo solo dare una parola. Si chiama teoria reputazionale. La ringrazio. Grazie Alberto Agnelli, preside del liceo Duca d'Aosta di Padova. Qualcuno ci scrive: siete superficiali, in moltissime scuole viene applicato questo criterio, e ce lo scrive Angela da Bologna via WhatsApp. Angela ci scrive: effetto giorno @radio24.it, ci faccia sapere in quali altri luoghi si vota. Votano i ragazzi della quinta liceo, i genitori della quarta liceo e tutti i docenti su a chi attribuire i premi di merito. Cosimo De Tommaso, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno e benvenuto. Cosimo De Tommaso è un imprenditore italiano, è un imprenditore che ha una piccola azienda ma che è famosa in tutto il mondo, perché vi ho dato per darvi l'immagine, no? Quelle scarpe rosse che ricorderete ai piedi di Papa Ratzinger, bene, le ha fatte lui. Fa scarpe con metodo artigianale ma anche con molta tecnologia. Si servono da lui persone come George Clooney e Brad Pitt. E adesso che fa De Tommaso? Vende agli americani? Beh, è una ipotesi in cantiere, è un'ipotesi che potrebbe maturare da qui a breve, insomma. Potrebbe maturare a breve. Le offerte ci sono, in sostanza, no? Sì, devo dire che il marchio ha una sua stabilità sul mercato e quindi, diciamo, suscita interesse questa decisione di collocarlo sul mercato. Ci hanno provato anche i cinesi, ma lei gli ha detto di no, mi sembra aver capito. Beh, i cinesi, diciamo che forse, non so se è stata una mia valutazione errata, ma non mi sembrava una giusta decisione, insomma, da parte mia consegnare ai cinesi un know-how che poi il nostro paese avrebbe perduto, insomma. Certo. La sua è una storia aziendale straordinaria, perché se non sbaglio addirittura un suo bisavolo, non lo so... andò a fare le scarpe, poi detta così suona male, però insomma andò a fare le scarpe a Napoleone. Le scarpe a Napoleone dal punto di vista, diciamo, guerrigliero gliel'hanno fatte altre, ma questo lo sappiamo. Le scarpe che indossava per le campagne, appunto, che Napoleone si avventurava ad effettuare, venivano realizzate da un Sinarra, da un tal Cosimo di Tommaso e dal figlio Emilio, ancora più bravo del padre. E questo poi alla fine dell'Ottocento, un ceppo con un tal Cosimo di Tommaso, il figlio Emilio, e poi io qua a proseguire con mio figlio Emilio, eccetera, nasce in provincia di Cosenza, esattamente a Montaltofugo, in questo piccolo comune, e diciamo che poi si è ripresa questa attività. Non so se è vera o non vera, però per me è vera, perché diventa la storia, insomma, dell'azienda, e quindi ci ha collocato come la prima, come l'azienda più antica calzaturiera al mondo. Al mondo, e tra l'altro in Calabria, insomma, un luogo dove fare impresa non è proprio, come dire, facilissimo in assoluto, diciamo, no? E beh, c'è una situazione data, e quindi ognuno che imprende in Calabria conosce che è parte da questa situazione data. Questa situazione data ti deve rafforzare, ti deve far essere non solo competitivo sui mercati mondiali, ma ti deve far diventare innanzitutto, come dire, protagonista della tua terra. Senta, Tommaso, un'ultima domanda, ma non sente un po' di dolore all'idea di lasciare la sua creatura e, per così dire, aperte virgolette, lasciarla in mani straniere? Certamente sì, perché è veramente una mia creatura, però ma questa è stata una scommessa di un po' di anni fa. L'Italia, il nostro paese, è un paese che esporta quasi l'intera produzione calzaturiera nel mondo. Dice, un'azienda nasce in Calabria, come fa ad essere concorrenziale? E lì andammo ad individuare invece un prodotto di nicchia, scarpe cucite rigorosamente a mano, scarpe che non potevano essere, come dire, prodotte soltanto dalle macchine, e allora questo ci ha consentito di collocarci su tutti i mercati del mondo, dalle scarpe, diciamo, da golf a quelle indossate invece tutti i giorni. La ringrazio e grazie a Cosimo e Tommaso per essere stato con noi. Le auguro buona giornata e vedremo come andranno le trattative con gli americani. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.